Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World e benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. È sempre Elisa Elena Carollo che vi parla, la vostra aspirante attrice di fiducia. Anche oggi sono qui per cercare di presentarvi un monologo che vi faccia capire che il teatro non è così lontano dalla vostra vita quotidiana come credete. Ma entriamo subito nel vivo. Oggi vi voglio proporre un monologo che parla proprio del lavoro dell'attore. Metateatro. Il teatro che parla del teatro. Una riflessione sul ruolo dell'attore all'interno del teatro stesso, portata a teatro. E quello che vi voglio presentare è Il signor Pirandello è desiderato al telefono di Antonio Tabucchi. In questo testo c'è un attore che immagina di chiamare al telefono il signor Pirandello, autore di moltissime pièce teatrali, come voi saprete. Effettivamente devo dire che anch'io avrei voluto telefonare a molti degli autori teatrali di cui ho interpretato i testi, per fargli delle domande, per avere dei chiarimenti e a volte anche per dirgli: ma che cosa ti è venuto in mente? Perché hai scritto questa cosa? Ti prego, spiegamela, io non capisco il senso. Sicuramente ogni attore ha avuto questi momenti in cui avrebbe voluto parlare con l'autore del suo copione e dirgli: ma senti, qui perché questo? Perché il personaggio dice questo? Perché fa questo? Ma non era meglio fare questo? Io, se fossi stata il personaggio, avrei fatto così e invece tu gli hai fatto fare così. Perché? E niente, purtroppo in alcuni rari casi in cui si conosce di persona l'autore si può fare questo discorso, ma sono pochi casi fortunati, perché noi poveri attori non professionisti e non famosi non possiamo parlare con il drammaturgo. Anzi, in molti casi il drammaturgo è anche morto da anni, se non secoli, quindi la telefonata più impossibile di così non potrebbe essere. Questo attore nel testo di Antonio Tabucchi si rivolge immaginariamente all'autore Pirandello, che in realtà non risponde, quindi in realtà sta soltanto manifestando questo suo pensiero al pubblico che l'ascolta. Vediamo che cosa gli dice. Adesso vi recito questo monologo e voi mi direte che impressione vi dà. Mi piacerebbe telefonare a Pirandello. Nel 31 è venuto a Lisbona di persona. Non ci siamo conosciuti. Ma mi piacerebbe pensare che avvenne. Io non gli direi che sono un attore. Gli direi solo: buonasera, signor Pirandello. Le telefono perché ho l'anima in pena. Perché a lui interessano le anime in pena. A lui, a me e a gente come voi. Gli altri sono sani e con le anime in pena si divertono. Sono un attore, sono un poeta. Per questo coloro mi cercano. Poi, quando si stancano, girano il mio interruttore e vanno a dormire tranquilli. Sono un poeta, sono un attore, ma la mattina mi sveglio, mi vesto, mi infilo le scarpe, esco per la strada e sono come tutti. E nella strada passano i passanti. Io li guardo e sorrido perché passano. E anch'io passo e nessuno mi nota. Ma poi, nella solitudine della mia stanza, apro le botole dell'anima, guardo nel buio i sotterranei. Ci sono topi, ruscelli di diamante, bellezze, miasmi e rancori. Lo faccio per me, lo faccio per voi, perché ci vuole qualcuno che guardi. E questi sono i poeti che cercano le stelle in fondo ai pozzi. A volte vedo figure, ricordi, memorie vigliacche, oppure i rimasugli di ciò che avrei voluto essere e non fui. Appena lividi desideri che galleggiano come bestie morte. L'amore l'ho conosciuto anch'io. Questo era ciò che l'attore che ci descrive Tabucchi vorrebbe dire a Pirandello, quindi all'autore teatrale un po' per eccellenza nella tradizione italiana. E spiega il suo essere un'anima in pena, perché, ve lo devo dire, essere attori non è proprio che sia un affare così semplice. Siamo in pena perché tanti dei personaggi sono in pena e noi dobbiamo immedesimarci in loro, avere le loro stesse emozioni, vivere le stesse cose che vivono loro e quindi anche noi, per cercare di dare vita a questi personaggi, andiamo a recuperare le cose che ci hanno fatto stare male, i traumi, i ricordi che magari una persona normale che non si è messa in testa di fare teatro nasconderebbe sotto il tappeto come un mucchietto di polvere e poi non la guarderebbe più, la lascerebbe lì, non ci penserebbe. E invece noi siamo masochisti da questo punto di vista, perché andiamo proprio a cercare i nervi scoperti che ci fanno male e li usiamo per questi personaggi, perché è vero che agli autori teatrali, ma anche a tutti gli altri autori, a quelli del cinema, della letteratura, della poesia, ma anche nelle arti figurative, va molto di moda il tormento interiore. O più che moda, in realtà potremmo dire che l'autore ha un tormento interiore che cerca di esprimere con la sua arte e poi, nel caso del teatro, questo tormento interiore si riversa sull'attore che deve impersonare quei personaggi tormentati. E il povero attore, che è una persona comune, che si sveglia la mattina, si mette le scarpe, si pettina, si veste, si trucca nel mio caso, esce nella strada normalmente, a volte va anche a fare un lavoro tra virgolette normale e sembra tutto normale in queste situazioni della sua vita. Però quando si trova alle prove oppure sul palcoscenico a dover rappresentare questa storia di un personaggio tormentato, deve tirar fuori delle cose impegnative. E a volte fare teatro può essere rilassante perché ci sono dei personaggi leggeri, comici, che fanno ridere il pubblico ma fanno ridere anche gli attori. E a volte ci sono i personaggi che fanno riflettere il pubblico e che sono pesanti per gli attori, perché per entrare nella loro mente, nelle loro emozioni, bisogna fare proprio uno sforzo di andare a cercare quei ricordi, quelle emozioni che non tireremmo fuori se fosse per noi. È vero che siamo un po' masochisti a voler fare questa cosa, perché in realtà ci lamentiamo, ma nessuno ci ha prescritto di farlo. Non è il medico che ci ha ordinato di fare gli attori, però almeno parlo per me, e credo di parlare per quasi tutti quelli come me, è una cosa che sentiamo dentro, è una passione che abbiamo, e quindi anche se non ce l'ha prescritto nessuno, ci sentiamo di doverlo fare. Perché forse staremmo anche peggio a non farlo, paradossalmente. Forse anche a voi sarà capitato, non con il teatro, ma con qualche altra passione. Ce l'avrete anche voi, magari dipingete, oppure scrivete, oppure create oggetti con il legno, qualsiasi altra attività che richieda un impegno. Per qualsiasi di queste attività in realtà sarebbe fatica, e sono sicura che a un certo punto anche a voi è capitato di domandarvi: ma chi me l'ha fatto fare? E la risposta è: lo faccio perché l'ho deciso io, perché mi piace, e anche se faccio fatica, mi piace e sento di doverlo fare. E la mia vita sarebbe un po' più vuota senza questa passione che ho. Quindi sì, insomma, noi attori non vogliamo essere compatiti, Però sappiate che c'è anche questa fatica, questo impegno dietro ogni spettacolo teatrale, ogni cosa che vediate recitata nella vostra vita. E cercate di riconoscere anche l'impegno dell'attore, che magari quel personaggio se l'è portato dentro anche molto oltre il tempo delle prove teatrali e dello spettacolo. Magari è rimasto sveglio di notte perché aveva degli interrogativi legati a questo personaggio, oppure si chiedeva a cosa poter ricorrere dei suoi ricordi per impersonarlo al meglio. Ecco, credo che attraverso questo testo abbiate potuto vedere un po' all'interno, dal buco della serratura, cosa significa essere un attore, cosa succede nella nostra testolina quando ci mettiamo a recitare. Spero che anche questa puntata sia risultata interessante e che vogliate seguirmi la settimana prossima alle 20:30, sempre qui su Radio Big World. Ah, dimenticavo, se volete farvi sentire, lasciare un commento, anche due parole per dire che avete apprezzato questo podcast o per dire che non siete d'accordo con qualcosa che ho detto, fare una domanda, venite sul mio blog, si chiama www.dramaqueen.it e c'è un post dedicato a questa puntata. Venite e commentate con qualsiasi cosa vogliate, anche solo una parola per far vedere che ci siete, e a me farà moltissimo piacere. Vi ringrazio fin da ora se lo vorrete fare. Basta soltanto avere un account Google e ormai tutti ce l'hanno, quindi vi prego, fatelo per me. Ci risentiamo la settimana prossima e spero di trovarvi sempre qui. Ciao a tutti!